Darei la parola per prima a Laura Gramuglia. Grazie Assessora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie mille per questa presentazione e grazie soprattutto per questa opportunità. Grazie a Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce, si rinnova la collaborazione con l'associazione Spostamenti. Con Spostamenti abbiamo già lavorato in passato a spettacoli molto importante. Abbiamo realizzato insieme la Margherita di Adele, che è stato uno spettacolo sul cambiamento climatico e sul rischio della privatizzazione dell'acqua, quindi un argomento di grande attualità. È un progetto che siamo riusciti a portare nelle scuole e nei teatri, soprattutto per sensibilizzare sull'argomento i più giovani, le ragazze e i ragazzi. La pandemia ci ha sorpreso mentre stavamo cercando di continuare naturalmente questo discorso e durante le date di un altro spettacolo musicale. Stavamo preparando Round Coltrane, uno spettacolo sulla vita e sulla musica di questo straordinario artista John Coltrane, questo straordinario sassofonista americano. Quindi molto lieta anche in tempi non facili di rinnovare questa collaborazione con l'associazione Spostamenti per questa rassegna che inizia da una pubblicazione, da un libro che si intitola proprio come la rassegna. E questo libro, faccio un ulteriore passo indietro, perché nasce durante un laboratorio, durante una serie di incontri alla Biblioteca delle Donne di Bologna, per cui qualche anno fa, con la complicità di Simona Brighetti, siamo riuscite a realizzare questo laboratorio e lì è stato il seme che ha generato poi l'idea per il libro, e libro che fortunatamente ha avuto anche una serie di declinazioni ulteriori. È arrivato il programma radiofonico, poi i DJ set e incontri al di là delle presentazioni, incontri nelle scuole e nelle biblioteche. Quindi questa era proprio la missione fin dall'inizio, cioè arrivare a raccontare la vita di artiste straordinarie. Le donne nella musica non sono poche quelle di cui ci si ricorda. Di solito sono sempre i nomi più altisonanti, che è bene, che è fondamentale ricordare, e però ce ne sono molte altre. Ci sono giornaliste, ci sono ingegnere del suono, ci sono producer, ci sono veramente tante donne con storie rivoluzionarie. E questo era un po' il compito che mi sono prefissa fin dall'inizio, cioè di raccontare queste vite e poi di raccontare anche la carriera, la vita anche attuale delle artiste del nostro territorio. Per cui questa rassegna nasce proprio con questo intento, cioè dalla voglia di raccontare quello che sta accadendo nell'industria musicale, dove vige ancora una disparità di genere evidente, e poi di arrivare anche a conoscere le artiste del nostro territorio attraverso un nuovo ciclo di incontri per incontrarle magari in presenza. La prima parte di questa rassegna sarà disponibile online e in podcast grazie alla collaborazione con Noi Radio. E poi ci sarà una seconda parte che vedrà invece la collaborazione con Frida nel Parco, quindi una rassegna, una fortunata rassegna che si svolge ogni estate al Parco della Montagnola. E lì speriamo, incrociamo le dita, speriamo di avere la possibilità di tornare in presenza e di poter conoscere e apprezzare la vita e l'arte di queste artiste del nostro territorio. Iniziamo domani dalle 16 alle 17, proprio in diretta sui canali di Noi Radio, e poi sarà disponibile il podcast. Iniziamo alla grande con questa figura che già 50 anni fa lamentava la mancanza di donne sui palchi della sua città. Questa figura è Patti Smith e ha fatto veramente tanto per scrivere una storia, per aprire un percorso a molte altre artiste che hanno potuto poi iniziare una carriera perché hanno visto quello che lei lei poteva fare. Lei ad un certo punto si è stancata di vedere che c'erano solo uomini sui palchi, benissimo, ha tinto pienamente da quest'arte e poi sul palco finalmente è riuscita a salire da protagonista. Iniziamo con lei e poi nella seconda parte dell'incontro ci sarà Sara Colantonio, referente per She Say So Italy, è una rete globale di donne attiva nell'industria musicale, quindi è un progetto che nasce all'estero, da un paio di anni è presente anche sul nostro territorio e cerca proprio di indagare la disparità di genere nell'industria musicale. Quindi iniziamo domani e poi incontreremo ogni due settimane, sempre di martedì alle 16, diverse protagoniste e molte altre ospiti, tra cui anche St. Vincent, che è una cantautrice, compositrice e polistrumentista, che dice una cosa molto importante e con questo chiudo. Come in tutti i luoghi di potere è necessario potersi sedere al tavolo, perché se non sei al tavolo sei sul menù.